tropicello timido celava la violetta, celava il picciolo sfero, candido alleggiadra giovinetta s'avanza e par che scocchi un fascino, un fascino dagli occhi. Oh, pensa, pensa la violetta degli altri fiorave si bei color l'aria festosa del giglio della rosa potrei della Niletta morire almen senza murmure in sé. Già la bella s'avanza, oimè, oimè, ecco preme il picciol piè, il picciol piè, la violetta, ai giace infranto il vergin fior, il piè bace dice ancor morire per lei, non è non è dolor. La violetta è morta, è morta, poveretta.